2024 di Enrico Pagliarini. Le 15:37 minuti, bentornati a 2024, questa è la puntata del 4 giugno, siamo in diretta anche oggi, potete chiamarci al nostro numero verde 800 24 0024 per parlare con noi, per parlare della distribuzione dei contenuti digitali in casa nostra. Oramai in molte case ci sono più di un computer, ma molti contenuti audio e video prodotti da noi oppure acquistati o scaricati in vario modo dalla rete, e uno dei problemi che spesso abbiamo è quello della distribuzione dei contenuti, e di questo parleremo nella seconda parte. Vi ricordo che potete comunicare con noi, oltre che con il numero verde, anche con gli SMS 349-238-6666, oppure con l'email 2024@radio24.it o via Facebook. Potete contattarci, iscrivervi, selezionare la nostra pagina, trovare la nostra pagina, che è 2024, molto semplice, scritto in cifra 2024, e quindi scrivere i vostri commenti nella nostra pagina per discutere con noi, anche se, come spesso vi ricordo, preferisco sentire la vostra voce, essendo questa una radio. Prima di iniziare con alcune delle notizie della settimana, tra le più importanti, volevo porre la vostra attenzione su quello che sta succedendo, forse in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, perché è stata una settimana piuttosto movimentata sul fronte cybercrime. Iniziamo dalla Sony, perché è passato circa un mese e mezzo dal mega attacco informatico, forse uno dei più grandi della storia, che ha messo KO il Sony PlayStation Network, che, ricordo, collega su internet milioni di console in tutto il mondo. Erano i giorni che vanno dal 17 al 19 aprile, l'attacco è stato effettuato in quei giorni. Da un paio di giorni i servizi sono stati riattivati in tutto il mondo, e questo vale anche per i servizi audio e video del network Curiosity, che ci permette di ascoltare musica online e di vedere video online attraverso il network della Sony. C'è però un nuovo allarme per la Sony, che è stata costretta ad ammettere che un nuovo attacco ha colpito il sito americano sonypictures.com, e che un gruppo di hacker ha messo le mani sui dati personali di oltre 1 milione di utenti. Dicevo che è stata una settimana piuttosto movimentata sul fronte cybercrime negli Stati Uniti, dove ricordiamo che le leggi obbligano le aziende a rendere pubblici gli attacchi o i tentativi dei cyberpirati, quindi lì le notizie le conosciamo. In molte altre aree del mondo non sappiamo bene che cosa succede nella rete, anche se gli esperti dicono che attacchi di questo tipo ce ne sono tutti i giorni. In ogni caso, negli Stati Uniti è stata attaccata in settimana la rete di computer della Lockheed Martin, che è il più grande fornitore mondiale di armamenti, e poi di nuovo Google, centinaia di account Gmail dietro ai quali ci sono rappresentanti del governo americano, attivisti politici cinesi, personale militare e anche giornalisti. In questo caso gli attacchi sarebbero partiti dalla Cina, che però ha smentito. La situazione comunque è piuttosto seria, tanto che il Pentagono, in un documento che verrà pubblicato entro fine mese, entro poche settimane, che è stato anticipato in parte dal Wall Street Journal, paragona alcuni casi di cybercrime ad un atto di guerra, e il Pentagono dice sostanzialmente: una minaccia anche telematica alla nazione potrebbe scatenare una risposta militare vera e propria, quindi non solo telematica. C'è da registrare anche un nuovo tipo di attacco, o forse meglio definirlo phishing, perché questi gruppi di hacker, di cybercriminali, sono riusciti ad entrare in alcuni computer, a rubare credenziali, inviando messaggi di posta elettronica che sembrano messaggi di colleghi di lavoro, oppure addirittura di parenti o di amici. A volte riceviamo messaggi strani e sono facilmente riconoscibili, e quindi cancelliamo quella email e non c'è nessun problema. In questi casi invece sono stati registrati negli ultimi mesi attacchi che sono partiti proprio da messaggi che sembrano di un amico, che magari ci chiede, non so, ricordi il numero di telefono del tal dei tali, o altro tipo di credenziali. Quindi una ulteriore attenzione è quella di leggere bene questi messaggi. Altre notizie della settimana. Digital News. Tra pochi giorni vi segnalo che a Los Angeles partirà martedì in modo particolare l'E3, uno dei più importanti appuntamenti dedicati all'industria del videogioco. L'attenzione è concentrata su Nintendo, che presenterà la nuova Wii 2, quindi la nuova Wii, cioè la numero 2, la nuova console che uscirà sul mercato nei primi mesi del 2012. Una delle domande che dovrebbe trovare una risposta martedì è come sarà fatto il controller della nuova Wii. Sapete che è stata la Nintendo a rivoluzionare il modo con cui controlliamo oggi i videogiochi, introducendo alla fine del 2006 il controller della Wii, che permette di guidare i personaggi dei videogiochi con i movimenti della mano o del braccio grazie a sensori particolari che sono inseriti in questo telecomando, nel controller appunto della Wii. Per la prima volta si andava oltre il concetto del joystick, che per anni è stato l'unico input dei videogame. Poi è arrivata anche Sony con il PlayStation Move e Microsoft, che è andata oltre un'ulteriore evoluzione, quella del Kinect, col quale i videogiochi si guidano con il movimento del corpo senza dover impugnare nulla. Alle 3 di Los Angeles Sony fornirà alcuni particolari della nuova PS Vita, che è la nuova console portatile. Poco o nulla sulla PlayStation 4, comunque vedremo nei prossimi giorni, e nemmeno Microsoft dovrebbe fornire nuovi dettagli sulla nuova Xbox 720. Digital News. Altro appuntamento previsto per lunedì è quello a San Francisco per la Apple, dove Steve Jobs presenterà il nuovo servizio iCloud, oltre che al nuovo sistema operativo Apple. Ma c'è molta attenzione verso questo iCloud, un'offerta basata sul cloud computing. Bisognerà vedere se sarà un'offerta per ascoltare e archiviare musica online, per fare concorrenza ad Amazon e Google in modo particolare, o ci sarà anche spazio per altri servizi come ad esempio il backup online. Digital News. Questa settimana Microsoft ha fatto vedere qualche dettaglio su Windows 8, il primo sistema operativo di Microsoft disegnato sia per i PC tradizionali che per tablet e più in generale per tutti i dispositivi touchscreen, con un'interfaccia che lo si vede subito, è chiaramente derivata da Windows Phone. Windows 8 supporta l'architettura ARM, ovvero i processori utilizzati su molti tablet e smartphone. Windows 8 dovrebbe arrivare sul mercato a metà del 2012. Digital News. Poi vedremo cosa risponderà Intel, che al momento non ha un processore per smartphone o tablet, ma come ha ribadito questa settimana al Computex a Taipei, ovvero Taiwan, l'azienda punta su un concetto che viene definito Ultrabook, cioè un portatile in grado di unire il meglio dei notebook, dei computer portatili tradizionali, cioè alte prestazioni, con il meglio dei netbook, ovvero leggerezza e bassi consumi. Digital News. Un'ultima notizia che avrete sicuramente ascoltato anche su Radio 24, secondo cui l'uso del cellulare potrebbe provocare il cancro, va sottolineata la parola potrebbe, il condizionale. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, o meglio una parte di questa organizzazione che studia proprio i tumori, che pubblicherà tra qualche settimana lo studio completo. Al momento è possibile consultare sul sito internet il comunicato stampa. Un rischio solo ipotetico, come spiega Susanna Lagorio dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, responsabile scientifico per l'Italia di questo studio, l'ha intervistata Romolo Napolitano. Le conclusioni sono quelle che esiste una debole evidenza di cancerogenicità, la IARC la chiama limitata, tra in particolare glioma cerebrale e neurinoma nel nervo acustico, ma questa associazione è detto che sia un rapporto causa-effetto, potrebbe essere dovuta a distorsioni, al caso. I cellulari sono nella categoria 2B, pericolosi quanto i sottaceti e il caffè in pratica. I sottaceti non so dirle, il caffè sì. Cosa bisogna fare per ridurre comunque al minimo il rischio? Esistono dispositivi a viva voce, gli auricolari praticamente annullano l'assorbimento di energia elettromagnetica radiofrequenza utilizzata nelle comunicazioni con i cellulari. Beh, vale il cosiddetto principio di precauzione, quindi utilizzare gli auricolari laddove è possibile, magari utilizzare anche un po' meno del solito il cellulare, ma soprattutto, questo lo dicono molto spesso gli esperti, molta attenzione nei confronti dei bambini, che sono più facilmente attaccabili dalle onde elettromagnetiche. Quindi fate utilizzare poco il cellulare ai bambini, spegnetelo durante la notte, insomma molte cose che spesso si dicono, si ripetono. Beh, nel dubbio è bene tenere presente queste cose. Sono le 15:47 minuti, adesso la viabilità, ritorniamo tra poco. 2024. Riprende 2024. All'inizio della trasmissione vi ho detto che oggi ci occupiamo di un problema che molti ascoltatori ci sottolineano, ci raccontano, a volte fate dei racconti molto lunghi, in alcuni casi estremamente interessanti, molto, molto appassionanti, e uno dei problemi è quello della distribuzione dei contenuti, anche direi l'organizzazione dei contenuti, ma questo è un po', dipende anche dalla testa di ognuno. Se uno è ordinato lo sarà anche con i file, se uno è disordinato c'è poco da fare, anche se è vero che i software e la tecnologia aiutano. Saluto Paolo Centofanti dalla redazione del magazine digitale di Day.it. Ciao Paolo, benvenuto, bentornato. Buongiorno a tutti. Dunque, quello della è corretto dire distribuzione dei contenuti? Cosa è meglio dire? Sì, distribuzione, condivisione. Ah, condivisione. Sì, condivisione, il concetto vero è quello di condividere. Sì, insomma. Perché se noi rimanessimo legati al concetto di distribuzione, potremmo anche far come si è sempre fatto, come si faceva una volta. Tu ti sei messa a ridere quando io prima ti ho detto questa cosa, perché hai detto ma ormai è una roba vecchia. Cioè io prendo un bel amplificatore audio, video, quello che è, con un po' di fili li faccio girare per la casa e posso distribuire quello che voglio. Però non si fa più. Ma non si fa più, si potrebbe benissimo fare ancora, diciamo che è diventato più complicato, cioè è molto più semplice ormai sfruttare la rete wifi, che quasi sicuramente, se abbiamo un collegamento a internet a casa, abbiamo anche il modem router wifi. Questo ci permette, partendo da zero con un PC, di utilizzare il segnale wifi per distribuire tutto ciò che abbiamo sul PC, quindi foto, musica, video e quant'altro, per il resto della casa, ovviamente con dei dispositivi compatibili che possono anche loro stessi collegarsi alla rete. A proposito di rete casalinga, tu hai citato il wifi, spesso viene citato il wifi. Se uno può, meglio mettere i cavi, comunque sempre più affidabile il cavo che l'etere. Sì, sicuramente, soprattutto per quanto riguarda il video, specie adesso che si parla di video in alta definizione, quindi occorre diciamo un segnale molto capiente in termini di robusto in termini di capacità dati, sì. Però di quantità di dati che serve trasferire, il wifi in questo momento ancora non è all'altezza della situazione. Senti, abbiamo citato due tecnologie che sono, forse è meglio dire due standard, che sono DLNA, nome ancora sconosciuto ai più, sì, anche se non è una roba nuovissima. No, anzi, è quasi 10 anni che è in giro, diciamo che dal 2003. Il consorzio è nato nel 2003, perché DLNA sta per Digital Living Network Association, già un nome abbastanza complicato, quindi anche difficile da capire cosa significa esattamente. In ogni caso, è un consorzio nato nel 2003 da principali produttori di elettronica e software, Sony, Toshiba, Panasonic, Sharp, Microsoft, ci sono dentro veramente tutti, e un consorzio che è nato proprio con l'idea di permettere di condividere i contenuti digitali attraverso una rete domestica, quindi implementando la connettività di rete sui dispositivi, che possono essere televisori, lettori DVD, lettori Blu-ray, cellulari, veramente qualsiasi dispositivo che può connettersi alla rete, e il mondo invece PC, che è già di per sé collegato da anni alla rete, e quindi permettere a questi due mondi di parlarsi tra di loro indipendentemente dal tipo di dispositivo, quindi appunto TV eccetera, e dal marchio. Quindi l'idea era quella proprio di creare un'interoperabilità tra i diversi produttori. Giusto per fare un esempio, che cosa ci si può fare, cioè che problema risolve tra i tanti il DLNA? Quindi se io ho, che ne so, delle canzoni sul computer e ho un amplificatore di una marca qualsiasi, XY. Sì, cioè il problema essenzialmente nasce dal fatto che con la digitalizzazione dei contenuti il computer è diventato una specie di calderone dove ci troviamo dentro di tutto, da appunto file musicali, le stesse foto che scarichiamo dalla macchina fotografica, eccetera. E il problema è che molte volte il computer l'abbiamo o nella cameretta, piuttosto che nello studio, eccetera, quando poi invece noi questi contenuti vogliamo vederli, soprattutto quando abbiamo amici, eccetera, non è che prendiamo gli ospiti e li portiamo nella cameretta, vorremmo vederli in soggiorno, sul televisore in grande, eccetera. Anche perché effettivamente il computer è personal, esatto. Mentre invece, ad esempio, la TV di casa è pubblica. Infatti. E tornando al tuo esempio, quello dell'amplificatore eccetera, quello che permette il DLNA, che io appunto magari l'impianto stereo ce l'ho appunto in sala, la musica ce l'ho invece tutta collezionata sul PC, magari anche organizzata con software eccetera, però io voglio ascoltarla in sala la musica. Il DLNA permette teoricamente senza particolari complicazioni di accedere direttamente dall'amplificatore a tutto quello che ho sul PC a distanza, utilizzando appunto come infrastruttura la rete domestica che ho già da casa, rete domestica che appunto può essere la rete wifi, la rete LAN o insomma, o qualsiasi altra cosa, anche la power line, ad esempio, che abbiamo ricordato varie volte, cioè con la possibilità di sfruttare i cavi elettrici che già ci sono, che raggiungono pressoché ogni stanza dell'abitazione, per far transitare anche i dati, cioè far diventare il cavo elettrico un cavo di rete con degli adattatori particolari che costano oramai poche decine di euro. Dunque sono le 15:54 minuti, non abbiamo ancora citato AirPlay, che è un altro standard di cui parleremo tra poco. Possiamo dire che è analogo al DLNA o no, non proprio? È simile nelle cose che permette di fare, nasce da una concezione leggermente diversa ed è soprattutto legato al mondo Apple. Ok, di questo parleremo tra poco. Adesso ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis. Ciao Maria Chiara, bentornata. Ciao Enrico, buon pomeriggio. Dunque, oggi tu ti trovi in Toscana. Ricordiamo che Maria Chiara Grandis sta girando l'Italia con una sorta di giro d'Italia della tecnologia per intervistare soprattutto i consumatori. A volte ci danno soddisfazione, a volte meno, perché a volte, ma ce lo puoi raccontare anche tu Maria Chiara, incontri persone molto competenti che sanno tutto della tecnologia di cui parliamo, a volte mica tanto. Sì Enrico, è così. Oggi a Prato siamo al punto vendita Euronics del centro commerciale che si chiama appunto Parco Prato. Anche noi come voi parliamo di distribuzione di contenuti digitali in casa e lo abbiamo fatto con i consumatori che questa volta abbiamo incontrato nei reparti di informatica, ma anche nell'area dedicata ai TV e quella riservata agli smartphone. Come dicevi, voi parlavate di DLNA ed AirPlay, beh, iniziano poi a incuriosire anche gli utenti della grande distribuzione queste tecnologie e chi le sceglie lo fa soprattutto per la loro praticità. Certo, come accennavi, siamo ancora agli inizi, lo dicono anche qui gli addetti alle vendite dei settori interessati, però qualcuno che è più esperto c'è e allora sentiamo la voce di chi è già abituato a questi standard. AirPlay lo utilizzi? Quello sì. Secondo te è semplice? Certo, è più semplice perché non c'è bisogno dei fili, uno deve stare un'ora a attaccare tutti i fili. Quindi anche per visualizzare i video è più comodo? Certo, molto meglio. E invece la musica? La musica lo stesso, cioè magari mando, c'ho la canzone sul telefono e la mando allo stereo, la mando... Trovi delle difficoltà con la lettura dei formati? Allora, dipende un pochino, tipo sullo stereo ce l'ho un po' vecchiotto, quindi magari gli MP4 o questi nuovi non me li legge, però per quanto riguarda gli MP3, vabbè. A proposito delle reti wireless, sono così comode che in Gran Bretagna hanno fatto uno studio e hanno scoperto qualche mese fa che nonostante nelle reti wifi casalinghe si noti in alcuni casi per interferenze varie un degrado del segnale, beh, la gente se ne frega ma continua a utilizzare le reti wifi appunto perché sono più comode piuttosto che i fili che devo dire una volta tirati soprattutto in fase di costruzione di una casa non vanno più toccati, ma di questo potremo riparlare più tardi. Chiamateci al nostro numero verde 824 0024 per parlare proprio della distribuzione dei contenuti che avete nelle vostre case. Ci risentiamo dopo le notizie di GR24. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024 alle 16:07 minuti nel nostro sabato pomeriggio. Potete chiamarci al nostro numero verde, il numero verde di Radio 24. Numero verde significa numero gratuito, perché a volte qualcuno scrive un SMS e ci chiede ma è gratuito? Certo, è gratuito. 800 24 0024. Io sono Enrico Pagliarini, saluto Paolo Centofanti della redazione di dday.it che abbiamo già sentito poco fa. Valeria Bernardi si occupa della parte tecnica oggi a 2024. Potete contattarci anche attraverso la nostra pagina Facebook, cercateci scrivendo nella ricerca di Facebook 2024 e da lì potete mandarci un messaggio per commentare quello che stiamo dicendo oppure per fare una domanda, anche se preferirei sentire la voce vostra al telefono. Dino da Padova ci scrive via SMS che sta per fare la casa nuova e se consigliamo una presa Ethernet in ogni stanza o fare Powerline. presa Ethernet tutta la vita, anche perché mentre si fa l'impianto elettrico a fianco si fa passare il cavo di rete Ethernet, le due cose non ne interferiscono e questa dovrebbe essere una dotazione standard di tutte le case di oggi. Quando uno va ad acquistare una casa dovrebbe, tra le caratteristiche della casa dovrebbe esserci anche questa, cioè casa cablata, possibilità di avere la rete ovunque. Poi se uno vuole aggiungere anche wifi lo può naturalmente fare con facilità, anche se con l'esplosione delle reti ultimamente ci sono anche dei problemi di interferenza tra abitazioni, questo quindi può creare un problema. Abbiamo parlato poco fa di questa tecnologia che ci permette di condividere all'interno di una rete locale file multimediali, audio e video. La tecnologia, ci diceva Paolo Centofanti, che è vecchia oramai quasi di 10 anni, ma ancora pochi la conoscono, e si chiama, detta all'inglese, DLNA, ovvero DLNA, ma quasi tutti la conoscono per DLNA. L'altra che abbiamo accennato, Paolo, è AirPlay. Simile, diversa, si fanno le stesse cose? A prima vista serve per fare le stesse cose, è un po' diversa perché è innanzitutto una tecnologia inventata da Apple, soprattutto per i suoi dispositivi portatili, quindi iPhone, iPod Touch e iPad. E quello che fa AirPlay è praticamente prendere i contenuti che noi abbiamo sul dispositivo portatile, pensiamo ad esempio all'iPhone, la nostra musica, i nostri video che abbiamo sull'iPhone, e letteralmente spararli verso i dispositivi compatibili. Il primo dispositivo compatibile è ovviamente l'Apple TV, che è un altro prodotto Apple, una specie di scatolotto che noi colleghiamo al televisore e ci permette di ascoltare la musica di iTunes oppure vedere i filmati che possiamo comprare sull'iTunes Store. Oppure anche altri prodotti compatibili, che possono essere amplificatori, ne stanno uscendo sul mercato diversi di diversi marchi, ma possono essere anche semplicemente casse attive, altoparlanti attivi, oppure in futuro, non è ancora detto, televisori e così via. Quindi, se ho capito, noi ad esempio se abbiamo delle canzoni sul nostro iPod che quindi supporta questa tecnologia, possiamo spararli, come sì, hai detto esattamente, tu, perché li possiamo trasmettere sì. su ad esempio un amplificatore che magari non è Apple, però è compatibile, esatto, con questa tecnologia, e li sentiamo nell'impianto hi-fi di casa. Sì, diciamo che poi la particolarità di AirPlay è quella di essere veramente molto molto semplice. Apple è un'azienda che punta molto all'esperienza di utilizzo il più semplice possibile. Quello che fa AirPlay è in realtà di essere completamente trasparente all'utente, per cui io schiaccio play sul mio iPod, riproduco la canzone, un'icona mi permette di scegliere se riprodurla con l'uscita per le cuffie dell'iPod oppure utilizzando gli altoparlanti esterni, che in realtà sono costituiti appunto o dalla Apple TV o dall'amplificatore compatibile o dall'altoparlante compatibile e così via. Senti, le due tecnologie si parlano tra di loro, sono interoperabili oppure no? DLNA ed AirPlay? Sì. No, sono due mondi completamente a parte e hanno un approccio in realtà abbastanza differente, perché il DLNA è un sistema di condivisione di file, quindi devo avere una specie di collettore che ospita la mia libreria di file digitali e poi posso distribuirla attraverso altri apparecchi, o meglio, sono gli altri apparecchi che vanno a pescare in questo contenitore e riproducono i file che trovano sulla rete, mentre AirPlay ha un approccio inverso, è il dispositivo che supporta AirPlay e invia i contenuti verso un altro dispositivo che lui vede come compatibile. La differenza importante è che mentre DLNA è uno standard basato sul file digitale, quindi sulla disposizione di file, AirPlay è più un'estensione del mio dispositivo, come può essere l'iPhone. Per cui posso utilizzarlo non solo per ascoltare la musica che ho installata sul dispositivo, ma anche per riprodurre flussi multimediali che provengono, ad esempio, da un'applicazione. Quindi può essere, per dire, un servizio orientato anche al cloud. Io, se ho un'applicazione sullo smartphone che mi permette di ascoltare delle radio su internet oppure di riprodurre video da internet, come può essere ad esempio l'applicazione di YouTube, AirPlay spara letteralmente questo contenuto che sto riproducendo con l'iPhone anche sul dispositivo compatibile. Una cosa che ad esempio DLNA non mi permette di fare. Questo. Spara è un termine che mi piace in questa accezione, sì, perché avremmo potuto utilizzare cosa che usano gli inglesi, push, perché c'è tutto un ambito della tecnologia che fa push, cioè che spinge un file, un'email, cioè verso una cosa, invece spara si fa capire facilmente. Le 16:13 minuti, Maria Chiara Grandis, tu hai fatto qualche chiacchiera su queste tecnologie di cui stiamo parlando anche con un responsabile del punto vendita.

dove la locale azienda che distribuisce l'energia elettrica ha anche una divisione che, sfruttando la tecnologia Powerline, porta proprio internet a casa delle persone. Però ci sono molti problemi, perché se la centrale di distribuzione elettrica è lontana dall'abitazione c'è un degrado del segnale, quindi questa parte della tecnologia viene utilizzata molto poco. In realtà in casa si può appunto condividere anche un collegamento ad internet. Alessandro, ci stai ancora ascoltando? Sì, no, stavo ascoltando con estrema attenzione, è proprio quel che mi serviva di sapere. Grazie mille. Perfetto, grazie Alessandro. Beh, io penso che una delle evoluzioni delle nostre case per i prossimi anni sia quella, anche nelle ristrutturazioni, quella di avere attenzione per i collegamenti ad internet. Simone da Firenze, buongiorno. Buongiorno, senta, io chiamavo perché come lei sono molto attento alla possibilità di cablare casa senza avere una rete wireless in casa. E quello che non ho capito è se il DLNA si adatta anche a reti cablate, non soltanto wireless. Sì, sì, risposta semplicissima. Perfetto. No, è che fino a poco tempo fa io avevo visto che c'erano dei sistemi di archiviazione dati, che tipo, ora non mi ricordo il nome esatto, forse RAC, che praticamente era una specie di hard disk esterno al computer dove tramite il cavo Ethernet era possibile mandare file. E volevo capire se questo poteva essere un punto di stoccaggio di file per tutta la rete, e quindi collegare in questo modo il cellulare, il computer e questo rack, questa specie di hard disk esterno nel quale far convogliare tutti i file. Chiarissimo Simone, grazie di averci chiamato. Allora, diciamo, se poi faccio parlare Paolo Centofanti, che ne sa sicuramente più di me, diciamo subito che concettualmente, quando parliamo di una rete, che sia wireless, che sia cablata, non cambia nulla. È diverso solo il mezzo che i dati sfruttano per trasferirsi da un punto all'altro della rete, da un computer, da un hard disk, eccetera, eccetera. Quindi quello che vale per il wireless vale anche per il cavo. Lo ricordiamo sempre e va detto, va specificato, che il cavo è più affidabile, più robusto dell'etere, ma questo è esperienza comune. I cellulari funzionano peggio del telefono fisso, a meno che il telefono fisso sia un cordless, ma anche lì ci sono di nuovo le reti, le onde radio che creano un po' di problemi. E se ascoltate spesso Radio 24 vi rendete conto che i cellulari ci hanno un po' favorito da un lato, ma anche danneggiato dall'altro, perché creano dei problemi d'ascolto piuttosto evidenti. Paolo, c'è altro da dire? Perché il nostro amico da Firenze ci diceva: posso avere un hard disk nel quale mettere tutto quello che io ho e da lì poi distribuirlo nella casa? Assolutamente sì, il nome esatto in realtà è NAS, non RAC, che sta appunto per Network Attached Storage, appunto unità di memorizzazione esterna attaccata alla rete, questo vuol dire letteralmente la sigla, ed è proprio quello, un contenitore, un hard disk esterno con una porta Ethernet, e anzi la maggior parte dei prodotti oggi sul mercato, anche quelli entry level, supportano già il DLNA integrato direttamente nel NAS, in questo serverino, e permette appunto di fare quello che serve all'ascoltatore, cioè condividere i file digitali che sono memorizzati su questo hard disk esterno in tutti i dispositivi compatibili. È un archivio. Dopodiché è un archivio. Senti, ma se io ho un amplificatore, ad esempio, oppure una TV, e tutte queste cose sono collegate alla rete di casa, dall'amplificatore o dalla TV posso andare direttamente su questo hard disk attaccato in rete a prelevare i file? Quindi banalmente, se si tratta di una canzone, ascoltare la canzone o vedere un film, o devo sempre passare per il computer? Che è un po' un problema. No, una volta che io ho un NAS collegato alla rete, il computer non mi serve più. Qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, anche contemporaneamente, possono andare a pescare da questo. Dobbiamo pensare al NAS come un serbatoio, una sorta di serbatoio collegato alla nostra rete, e chiunque può andare contemporaneamente a pescarci sopra. Solo però nel caso che siano DLNA compatibili oppure no? Oppure non è necessario? Allora, diciamo che il DLNA è uno standard che nasce per semplificare questo meccanismo di condivisione, anche perché rende automatico per il televisore scoprire se esiste un un dispositivo di questo tipo sulla rete, lo vede automaticamente, eccetera. Esistono altri lettori multimediali che magari sono compatibili con DNA, però sfruttano anche un altro sistema che è quello della condivisione Windows, diciamo. Cioè, se noi pensiamo di avere un PC e di avere la nostra cartella e la condividiamo in rete, la stessa cosa lo fa il NAS, anzi il NAS nasce originariamente proprio per quello, prima ancora del DNA, e questi dispositivi multimediali possono andare a leggere le cartelle condivise che siano su un PC o su un NAS anche senza DNA. Quando parliamo di file da condividere, parliamo spesso di MP3, parliamo di JPEG per le fotografie, per le immagini, oppure nel video di che cosa parliamo? Una volta parlavamo di DVX, che sono file AVI, sì. .AVI, poi ci sono anche altri tipi di file, soprattutto adesso con l'alta definizione. Un'estensione più utilizzata si chiama MKV, che sta per Matroska, un formato... Tutti questi file, visto che poi se ci mettessimo a raccontare i file, altro che litania dei santi, potremmo continuare per ore, sono supportati da questo linguaggio di condivisione DLNA? Ecco, questo è un punto un po' delicato, perché il DLNA è uno standard che, appunto, come abbiamo visto, come abbiamo detto prima, nasce da un consorzio dei più grandi distributori di elettronica, che hanno fatto un po' di protezionismo, possiamo dire, in questo senso, supportando i formati che erano propri dell'industria dell'elettronica. Mentre in realtà i formati più diffusi si sono diffusi, diciamo, tramite internet, quel mercato un po' grigio della pirateria, con i DVX, eccetera, che erano file invece un po' più del mondo PC, anzi del mondo dell'elettronica. DLNA ha fatto uno sforzo per cercare di standardizzare i file supportati, privilegiando appunto i formati dell'elettronica come ad esempio l'MPEG. Questo non vuol dire che il DLNA non supporta tutti i file esistenti, anzi la maggior parte dei prodotti DLNA compatibili supportano praticamente tutti i file esistenti. Il problema è che a livello di standard, quindi diciamo di formati che sono obbligati, che un dispositivo DLNA è obbligato a supportare, il numero di formati è leggermente ridotto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari un server supporta tutti i formati esistenti e magari il televisore ne supporta un insieme ristretto, ne supporta solo uno o due di questi formati. E quindi può succedere che magari il nostro TV non è in grado di vedere tutti, diciamo, i file video. Sì. Un esempio pratico, io scarico un trailer, tipo dal sito di Apple, che permette di scaricare i trailer di tutti i film in uscita gratuitamente in formato .mov. Il formato .mov non è supportato da tutti i dispositivi DLNA e quindi magari il mio TV può leggerlo, ma anche no. Senti, in generale, a tuo parere, più semplice il mondo AirPlay o il mondo DLNA? Domanda che non ha una risposta unica, nel senso che AirPlay nasce sicuramente per essere il più immediato possibile ed è sicuramente facilissimo da usare, perché non ho niente, ma proprio niente da configurare, se non ad esempio in dispositivi come Apple TV una password per impedire che qualcuno possa, magari la rete del vicino, arrivare se ho il wifi aperto e sparami i suoi film al posto dei miei, ad esempio. Però in realtà l'AirPlay proprio non c'è bisogno di configurare nulla. Molti dispositivi come le applicazioni DLNA per smartphone a Android, ad esempio, sono facili da utilizzare esattamente come AirPlay. Su altri dispositivi non è così immediato. Ad esempio, il DLNA è integrato in tutti i PC con Windows 7 o nei PC prima con Windows Vista, con Windows XP era integrato in Windows Media Player. Lì occorre un attimo più di essere un po' più smaliziati per sapere dove andare all'interno del sistema operativo per abilitare la condivisione di DLNA, trovare la libreria dei file, condividerla, eccetera. Senti, poi parleremo anche di Android, perché tutte queste cose sono in qualche modo legate, almeno per quanto riguarda il computer, anche ai sistemi operativi, oppure per i terminali mobili, quindi gli smartphone, tipicamente al sistema operativo di questi strumenti. Quindi parleremo anche di sistemi operativi. Adesso c'è la pubblicità, però a proposito di Windows 7 abbiamo anche qualche numero. Numbers 2024. Numbers. Secondo la recente ricerca di StatCounter, Windows XP resta il sistema operativo più diffuso al mondo con il 45.8%, seppure in discesa dal 60% di marzo 2010. Windows 7 è invece il sistema che cresce di più. Di quanto è cresciuto nell'ultimo anno? Numbers. 2024. Le 16:30 minuti 2024 sarà disponibile anche attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online sul nostro sito internet www.radio24.it. Nella pagina naturalmente dedicata ai podcast scegliete 2024 che trovate per primo in alto nella pagina. Il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi anche durante la settimana è 2024@radio24.it. Con noi oggi c'è Paolo Centofanti dalla redazione del magazine digitale dday.it. Tu e i tuoi colleghi in redazione, Paolo, provate un sacco di apparecchi. Così a spanne, su 100 apparecchi che oggi escono, quanti sono compatibili con DLNA? Tutti? No. Ma tutti quelli che hanno una porta di rete direi che oggi sono compatibili DLNA. Ah, quindi è molto probabile che se uno acquista un amplificatore di rete, anche una TV nuova che si connetta alla rete internet, un hard disk, eccetera, eccetera, ha già uno strumento compatibile con DLNA. Sì, al 90% sì. AirPlay? AirPlay sono ancora molto pochi invece i dispositivi. Quindi non ancora... Diciamo i top di gamma degli amplificatori, di marchi come Pioneer, Denon, Marantz, così, e in realtà poco altro. Molti di questi strumenti hanno proprio una, si dice docking, ma insomma è una nicchia dove inserire dentro un iPod, un iPhone, eccetera, eccetera. E quello per forza AirPlay, giusto? Non è AirPlay, però, cioè, diciamo, però sono compatibili con gli probabilmente, probabilmente all'interno ha anche una compatibilità AirPlay, se ha la docking per Apple. O non è detto? No, non è detto. Ah, non è detto. Senti, prima abbiamo accennato a Windows 7, e abbiamo fatto una domanda poco prima della pubblicità, chiedendovi quanto è cresciuto Windows 7 nell'ultimo anno. Allora, è il sistema operativo che cresce di più sul mercato, passando dal 12% di marzo 2010 al 33% di maggio 2011. Detto in altri termini, chi ha, secondo StatCounter, chi ha ancora un PC con Windows XP sta gradualmente passando a Windows 7, saltando Windows Vista, che ha deluso naturalmente il mercato, che ha ancora una quota di mercato del 12%. Tra gli altri sistemi operativi, il sistema del Mac, macOS, tra l'altro ricordiamo che lunedì verrà presentata la nuova versione, è al quarto posto, ha una quota di mercato nel mondo del 6,3%, Linux fatica a raggiungere la soglia dell'1%, attualmente allo 0,8%, stiamo parlando naturalmente di sistemi operativi installati su computer, perché se andassimo a vedere le quote di mercato che Linux ha nel mondo server, saremmo a quote ben più elevate. Dunque, a proposito di sistemi operativi, Paolo, se io ho Windows, devo fare riferimento necessariamente a DLNA oppure anche AirPlay? Posso usare entrambi i sistemi. Diciamo che nel mondo Windows DLNA è già integrato dentro Windows 7, ma nel momento in cui scarico iTunes, a questo punto accedo anche ad AirPlay. AirPlay è integrato dentro anche ad iTunes, e anzi tramite iTunes posso addirittura creare una specie di sistema, parliamo ad esempio per l'audio, multiroom, in quanto iTunes mi permette addirittura di selezionare anche su Windows non solo gli altoparlanti del PC, ma anche simultaneamente tutte le periferiche compatibili che trovo in rete. Se ho Mac, vado su AirPlay. Sì, ovviamente anche per Mac, però esistono software che permettono di trasformare il Mac in una specie di server DLNA. Ah, quindi posso parlare anche con gli strumenti DLNA. Ecco, abbiamo detto che queste cose valgono anche per i terminali mobili, quindi se ho ad esempio iOS di Apple valgono le stesse considerazioni. Se ho invece Android... Se invece ho Android, anche su Android esistono applicativi DLNA, anzi soprattutto nell'ultimo periodo con gli ultimi modelli che stanno uscendo in questi mesi, già montano integrato dentro, appena lo compro, un'applicazione DLNA che mi permette sia di vedere sul telefonino i contenuti memorizzati su un server DLNA compatibile, sia viceversa di riprodurre su altri dispositivi DLNA compatibili i contenuti che invece sul telefonino, quindi tipicamente MP3, foto e video. Sì, sì, tipicamente può succedere che io stia ascoltando qualche cosa su uno smartphone con Android e posso passare, non so quanto automaticamente o velocemente, su un, che ne so, sull'amplificatore di casa. Diciamo che su Android, a differenza di con AirPlay, che posso fare esattamente questo, sì, sì. Sto iniziando ad ascoltare una canzone o sto guardando un video, con AirPlay posso, semplicemente schiacciando un bottone, continuare senza interrompere la riproduzione su un altro dispositivo. Con gli LNA questo non è ancora possibile, però comunque posso utilizzare il telefonino per dovrò mettere tipo in pausa la riproduzione, aprire il programma di LNA e prendere il file, mm-hmm. E anche in questo caso... tra virgolette possiamo spararlo sul sì, dispositivo. Sì. A proposito di Android c'è una storia simpatica di un grande sostenitore, o meglio, certo un grande sostenitore di Android, ma una persona che forse ce l'ha con la Apple, non so, spiegami bene, prima mi raccontavi qualche cosa. Sì, per Android una delle applicazioni più interessanti di questo momento si chiama Double Twist, che è un'applicazione che da poche settimane supporta sia DLNA sia AirPlay. AirPlay è stato, tra virgolette, craccato, si è capito come funziona. Questo programmatore, che si chiama John Lice Johansen, un programmatore norvegese, è riuscito a implementarlo in maniera non ufficiale anche su questo programma per telefonini Android. Questo personaggio è un personaggio, cioè un ragazzo giovanissimo dell'83, ha 27 anni, e è noto, è saltato alla ribalda inizialmente perché è stato colui il quale ha craccato la protezione dei DVD e ha reso possibile copiare i DVD molti anni fa. Da quel momento è sempre stata la ribalta, poi perché appunto ha preso a cuore il problema del DRM, la protezione dei contenuti, che essenzialmente è l'ostacolo principale poi a questa condivisione dei file all'interno di una rete domestica, e ha preso di mira Apple e una volta iTunes, le canzoni che si possono comprare su iTunes, una volta erano protette dalla copia, potevano essere ascoltate solo sull'iPod o il PC su cui venivano scaricate. Johansen è stato il primo a capire come decrittare queste canzoni e permettere di ascoltarle anche su altri dispositivi. E insomma è una passione quella contro, diciamo, i blocchi imposti da Apple, mm-hmm. che si è portato avanti e appunto poi ha creato creare. Tu hai una persona del genere, per alcuni è un benefattore della società, per altri invece un criminale. Senti, tu hai citato i DRM, che sono delle cose che non si vedono, sono dei dati inseriti all'interno di un file che permettono di trasferire questo file in alcuni casi, oppure mettono dei limiti di trasferibilità di questo file. Questo è uno dei vincoli maggiori, secondo te, per la diffusione di questi standard di cui abbiamo parlato oggi? Assolutamente sì, perché lo scopo con cui nasce il DRM è quello di dare al detentore dei diritti di un'opera la possibilità di decidere cosa l'utente finale può fare di quel file. Nella maggior parte dei casi quello che decidono è tipicamente di poterlo riprodurre sul computer con cui viene acquistato il contenuto e basta. Ciò ovviamente va contro quello che vorrebbe essere invece la libertà che magari l'utente vorrebbe da un file digitale, appunto poterlo riprodurre in casa una volta che l'ha acquistato con qualunque dispositivo a disposizione. Il DRM in questo momento è un ostacolo a tutto questo. È stato praticamente tolto ormai per quanto riguarda il discorso della musica, ormai sono pochissimi gli store digitali che utilizzano ancora la protezione della copia, perché hanno capito che non serve per proteggere le opere, ma è solo un freno all'innovazione. Persiste invece ancora nel mondo del video, quindi qualsiasi store che oggi offre la possibilità di acquistare o noleggiare contenuti video utilizza ancora questi sistemi e sono un limite appunto per tutto quello di cui abbiamo parlato ancora. Non abbiamo citato Windows Phone 7, quindi il sistema operativo della Microsoft per i terminali mobili. Esiste DLNA anche per Windows Phone 7? Windows Phone 7 come funziona in questo caso? Forse ci sono delle applicazioni per Windows Phone 7. Dovrebbe supportarlo nativamente, visto che appunto la condivisione di file di Windows utilizza appunto il DLNA, quindi insomma diciamo che parlano la stessa lingua. Sì. Dunque, io ringrazio Paolo Centofanti per essere stato con noi. Ricordo anche che potete contattarlo tramite la redazione di dday.it. Adesso ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis per l'ultimo collegamento di oggi. Tu hai parlato in questo caso con persone che forse, come diceva prima Paolo Centofanti, hanno in casa queste tecnologie ma non sanno di averle e quindi non le utilizzano, comunque non le conoscono. Grazie Enrico, è proprio così, perché possiamo certo dire che DLN e Airplay iniziano ad essere conosciuti quantomeno a livello di nomi, ecco, dal consumatore medio, ma molti ancora preferiscono collegare fra loro i dispositivi della casa, ad esempio con cavi di dati, e questo non avviene solo per una questione di costi, anzi, come dicevi tu, proprio spesso chi utilizza queste tecnologie non sa, non si rende nemmeno conto di farlo. E allora possiamo sentire le altre voci che abbiamo raccolto qui al punto vendita Euronics del centro commerciale Parco Prato. Per esempio, voi le foto che avete sullo smartphone o sull'iPhone le trasferite sul TV? Su un disco fisso e poi dopo si vede in TV. In che modo? Senza fili? No, fili, col cavetto. Quindi niente AirPlay? No, lo fa con il Bluetooth. Lo metto col cavetto. Quindi per esempio lei non fa caso se acquista prodotti che hanno la certificazione DLNA? No, non mi ha fatto caso, sinceramente. Perché in realtà la maggior parte anche di questi TV hanno questa possibilità. Non sapevo neanche che c'era. Il problema di costi c'è, che comunque si ha per una televisione del genere, insomma, ci vogliono diversi soldi. Beh, come avete sentito, insomma, ci sono ancora molte persone, ma è chiaro che sia così, che anche dopo tanti anni che queste tecnologie sono disponibili sul mercato, faticano a, anche solo a conoscere i nomi. Allora, le ricordiamo al termine di questa chiacchierata che abbiamo fatto oggi, avete anche possibilità poi di approfondirle su, su internet. DLNA, quindi DLNA ed AirPlay, che sono le due tecnologie che abbiamo utilizzato oggi per far capire come all'interno ad esempio di un'abitazione, ma può essere anche un ufficio o qualsiasi altro tipo di situazione, possono essere distribuiti i contenuti. Abbiamo citato in alcune occasioni, in alcuni casi, la possibilità di condividere contenuti audio, video tramite vari dispositivi, e proprio la moltiplicazione di questi dispositivi, che quindi sono tablet, smartphone, soprattutto computer di qualsiasi tipo, portatili, ultrabook come vengono definiti oggi alcuni portatili, ecco, questa moltiplicazione è alla base dell'aumento del traffico internet. Secondo dati che sono stati pubblicati questa settimana da Cisco, il traffico a livello mondiale aumenterà di 4 volte entro il 2015, e causa del forte aumento saranno appunto i dispositivi collegati. La crescita del traffico sarà guidata dal video, che nel 2015 genererà un traffico 14 volte più grande che nel 2010. Ogni anno escono questi dati, questa è una prospettiva alla quale ci dobbiamo abituare, quindi anche le reti dovranno supportare questo, questo traffico. Tra poco torna la nostra rubrica realizzata in collaborazione con National Geographic. In questa puntata andremo su un ottovolante, ovvero su una montagna russa, con un accenno ad un filmato che potrete vedere appunto all'interno delle, dei documentari di National Geographic intitolati Mega Strutture, e invece noi racconteremo un'esperienza italiana di un parco italiano. Sono le 16:43 minuti, adesso abbiamo la viabilità, ci risentiamo tra poco. 2024. Ultima parte di 2024, oggi torna l'appuntamento in collaborazione con National Geographic, canale 403 della piattaforma Sky. Parliamo di montagne russe, così chiamate perché tra il XVI e XVII secolo in Russia erano stati installati alcuni scivoli di legno con sopra il ghiaccio che regalavano sensazioni mai provate prima. Noi oggi le chiamiamo anche ottovolanti, gli americani, dove queste attrazioni si sono sviluppate negli ultimi 200 anni, le chiamano roller coaster. Parco di Six Flags Great Adventure, Jackson, New Jersey. L'avanguardia degli ottovolanti. Qui un gruppo di ingegneri esperti spera di battere i record di tutte le montagne russe oggi esistenti. Una paura elettrizzante è proprio ciò su cui le montagne russe, assoluto simbolo dei parchi di divertimenti, contano. Il parco del Six Flags Great Adventure ospita il simbolo supremo di tutti gli ottovolanti, il Kinda Ka. Una squadra di ingegneri specializzati è pronta ad affrontare la sfida di un'opera monumentale che vale più di 25 milioni di dollari. Dovranno spingersi oltre i limiti della tecnologia più avanzata e usare montagne di acciaio. Ma le delicate meraviglie meccaniche potrebbero mandare all'aria l'intero progetto in un solo istante. È un'impresa complicata. È alto 45 piani e prevede un'accelerazione da 0 a 205 km all'ora in 3 secondi e mezzo. Con una di queste corse si sperimenta quanto di più vicino si prova quando si decolla da un ponte di una portaerei o quando un F-16 si avvita in picchiata. Negli ultimi 10 anni la guerra degli ottovolanti infuria sempre più. Ma il Kinda Ka riscrive le leggi della fisica delle montagne russe. La partenza non avviene più lentamente, come accadeva in passato. I vagoncini vengono lanciati in modo del tutto simile a un jet catapultato a tutta forza dal ponte di una portaerei. Il carrello di fermo che scorre lungo il binario viene fissato a un'estremità come fosse una molla. E il trenino è agganciato ad esso come se fosse il cane di una pistola. Quando il grilletto viene azionato, i vagoni vengono lanciati in avanti a tutta potenza, come se fossero proiettili, ad una velocità difficile da immaginare. Ma non certo per questi ingegneri. Nel 2003 un nuovo modello di ottovolante sciocca l'industria di settore, portando la tecnologia di lancio a un altro livello e battendo 2 record mondiali. Il Top Thrill Dragster a Cedar Point, in Ohio, raggiunge solo i 128 metri di altezza. Ma è il primo ottovolante che, in virtù della sua incredibile altezza e con una accelerazione di 193 km all'ora in 4 secondi, offre un'esperienza simile a una dragster top fuel. Marzo 2004. Gli esperti del Six Flags Great Adventure stringono un accordo con gli svizzeri dell'Intamin, che ha realizzato il Top Thrill Dragster. E l'idea del Kinda Ka prende corpo. La loro idea è cominciare con il progetto del Top Thrill Dragster, ma realizzare un ottovolante più grande, migliore e più veloce. Il Kinda Ka. La potenza disponibile è notevole. Il valore dell'investimento è di 25 milioni di dollari e l'impianto deve essere aperto al pubblico all'inizio della stagione successiva. Utilizzando uno dei principali programmi di CAD design in circolazione, l'idea comincia a prendere forma. Anche solo un metro in più o un chilometro orario più veloce e i costi leviteranno. Ogni cambiamento nella geometria del tracciato influenzerà la tensione a cui sono sottoposti i passeggeri. La forza di gravità va riformulata, servono centinaia di aggiustamenti. Il progetto finale è un tracciato lungo 950 metri. Considerando lo spazio concesso dal parco, è abbastanza per garantire il massimo dell'eccitazione. Le Kinda Ka sono sicuramente tra le montagne russe più famose del mondo e sono parte della rete del Six Flags, la più grande catena di parchi divertimento al mondo. Oggi esistono diverse tipologie di montagne russe anche in Italia. Alcune tra le più note sono a Gardaland, sul lago di Garda, uno dei primi e più importanti parchi divertimento in Europa. Giuseppe Lepera è il direttore tecnico della manutenzione delle attrazioni. Beh, oggi ci sono vari tipi di montagne russe. Cioè, montagne russe è rimasto il termine storico con cui il grande pubblico conosce questo tipo di attrazione. Diciamo il termine montagne russa non si adopera più. Per gli addetti ai lavori si parla di roller coaster, ma con tutta una serie di varianti. La più importante che è avvenuta negli ultimi decenni è dovuta al tipo di propulsione del treno. Cioè, per tradizione, le montagne russe roller coaster, il treno acquista dell'energia perché sale su un lift o sulla rampa che normalmente il pubblico lo vede salire e lì poi viene sganciato e quindi consuma tutta la sua energia nel percorso, lungo il percorso. La differenziazione più importante è che oggi invece sono state costruite altri tipi di attrazioni molto estreme che sono i launch coaster. Il launch coaster è un tipo di attrazione in cui il treno invece viene sparato. Viene sparato perché viene letteralmente lanciato con vari sistemi di tipo elettrico, per esempio con motori lineari oppure con sistemi idraulici di accumulo di energia. E Gardaland ha fatto una scelta proprio di marketing, visto il tipo di target di pubblico, e invece ha preferito sempre continuare ad installare attrazioni di tipo roller coaster, cioè attrazioni che vengono poi sganciate alla fine di una salita. E qui poi ci sono tutte le variazioni. La variazione soprattutto è dovuta al tipo di percorso e al come vengono posizionati i sedili. Diciamo che la montagna russa tradizionale i sedili sono in asse, lungo sul treno, lungo il binario, invece poi sono stati sviluppati altre attrazioni, la più importante è il suspending loop and coaster, dove i veicoli, i sedili sono sospesi, quindi con delle sensazioni ancora in particolare ancora più forti, che è il nostro Blue Tornado, Con il Raptor invece si è fatto un'ulteriore evoluzione, cioè i sedili sono stati posti ai lati del binario, per cui è come se fosse una grande ala che cammina e dà proprio questa sensazione del volo lungo il percorso. Senta, negli ultimi anni quali sono le innovazioni più rilevanti che sono state introdotte in sistemi di questo tipo? Perché quando parliamo di montagne russe parliamo di attrazioni che hanno una lunghissima storia, non si tratta di novità. Probabilmente una delle novità è l'ideazione, lei prima appunto ci raccontava di questa nuova attrazione che sembra avere due ali, quindi sicuramente questa è una tipologia nuova, però sostanzialmente insomma il concetto di montagne russe è molto vecchio. Negli ultimi anni quali sono state le innovazioni più importanti? In realtà delle vecchie montagne russe, da quello che si vede all'esterno, forse c'è solamente il binario, ma anche questo ha subito delle evoluzioni notevoli. Basta vedere il loop che fa i treni, oppure gli avvolgimenti lungo l'asse longitudinale del treno, e questa è stata la prima grossa evoluzione. Per cui il binario in realtà oggi ha una precisione assoluta, e questo si può già apprezzare vedendo, per esempio, sentendo la silenziosità di un'attrazione quale Raptor, dove sembra è un fruscio che arriva e il treno quasi non si sente arrivare. Teniamo conto che è un mezzo da 18 tonnellate e quindi a pieno carico, vuoto pesa 15 tonnellate, porta 28 persone. Quindi questo che cos'è? È dovuto alla accuratezza proprio nella costruzione dei telai, del binario, nel materiale scelto per le ruote. Oggi le ruote sopportano sollecitazioni che una volta erano impensabili, anche se per gli addetti ai lavori il materiale di partenza è il Vulcolan essenzialmente, ma ha avuto delle evoluzioni che anche altri costruttori sono meravigliati, per esempio della silenziosità di un'attrazione come Raptor. Questo dal punto di vista squisitamente meccanico. Invece poi la grossa evoluzione che c'è stata è sul sistema di gestione e di controllo, ma oggi noi abbiamo sistemi capaci di fare un'autodiagnosi, sistemi che indicano il guasto con precisione assoluta. Questo implica, per tutto il vantaggio della sicurezza, perché abbiamo una ridondanza e quindi ci consente di elevare di molto il grado di sicurezza, ma poi soprattutto una rapidità di intervento, un alto indice di disponibilità della trazione. Poi l'altro grosso sviluppo è nel sistema di frenatura. Oggi abbiamo sistemi che consentono non solo una frenata del treno, ma soprattutto si può controllare con sistemi, con freni di tipo magnetici, cioè magneti permanenti, riusciamo a controllare anche la velocità del treno. E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie per aver scaricato il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Cercate anche la nostra pagina su Facebook, consigliatela anche ai vostri amici, abbiamo messo un link ad un museo inventato dalla Intel, che è praticamente il museo di se stessi, cioè questa è un'applicazione appunto ideata da Intel che prende tutti i nostri dati disponibili su Facebook e li mette in mostra in un museo virtuale. Un'applicazione sicuramente curiosa e interessante, che ci fa vedere tutto quello che di noi è disponibile in rete. 2024 torna la prossima settimana, ci occuperemo di navigazione satellitare, cercando di capire se sono sufficienti le applicazioni per smartphone per navigare, o è ancora meglio il vecchio caro navigatore GPS da installare in automobile o in altro ambito. Grazie per il vostro ascolto, per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima settimana. 2024.